Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un benvenuto da Maurizio Melis. A differenza dei terremoti, di cui si possono stimare probabilità e intensità ma non il momento in cui si scateneranno, le eruzioni vulcaniche hanno la buona abitudine di farsi precedere da vari segni premonitori che permettono, o potrebbero permettere, insomma, di allertare la popolazione per tempo e eventualmente dare anche avvio alle procedure di evacuazione. Tra questi segni premonitori, uno dei più importanti è un netto aumento della concentrazione di anidride carbonica nei fumi che si sollevano dal cratere, aumento che si verifica tipicamente da qualche settimana a qualche mese prima dell'eruzione. Ebbene, a fine novembre, nel corso di un convegno organizzato dall'Agenzia Spaziale Tedesca, l'ENEA ha presentato una nuova tecnologia per misurare la concentrazione di CO2 all'interno dei pennacchi vulcanici. È stata messa alla prova per la prima volta a ottobre questa tecnologia alle solfatare di Pozzuoli. Si tratta di un particolare tipo di LIDAR, cioè un radar ottico, una specie di mix fra un laser e un radar. Ne parliamo con Luca Fiorani, ricercatore dell'ENEA e anche, diciamo, principale autore di questa ricerca. Buonasera Fiorani. Buonasera a tutti, grazie per aver chiamato. Senta, allora, un radar laser per misurare le emissioni di CO2, perché? Viene insomma da pensare che esistano metodi più facili. Allora, intanto il radar laser ha la possibilità di misurare a distanza, quindi noi spariamo un impulso laser, questo impulso laser viaggia nell'atmosfera, raggiunge la zona da misurare e dalla luce che torna indietro noi siamo in grado di dire quanta anidride carbonica c'è, senza andare lì con tutti i rischi che ci sono. Ecco, quindi il primo vantaggio è appunto che non bisogna andare sopra un cratere che magari rischia anche di eruttare, no? Questo è evidente. Allora, un altro vantaggio forse è che riuscite a fare una misurazione più completa. Appunto, ci sono due vantaggi. Uno, come lei diceva, noi non andiamo sul cratere, e sul cratere uno c'è pericolo per le persone, due le strumentazioni vengono corrose dagli acidi che vengono emessi dal plume vulcanico, dal pennacchio vulcanico, e poi noi possiamo orientare il fascio laser e fare una specie di tomografia al di sopra del cratere, e noi lanciamo il nostro fascio, che è una linea invisibile, infatti spariamo nell'infrarosso, questa linea invisibile la muoviamo al di sopra del cratere e alla fine otteniamo un'immagine tridimensionale come se facciamo una tomografia del nostro corpo quando andiamo dal medico. Cosa che evidentemente è del tutto impossibile mettendo lì sensori, anche perché dovrebbero stare sospesi per aria. Senta, proviamo a spiegare un po' come funziona questo apparato. Noi abbiamo in mente che il radar, diciamo, è un apparato per cui si spara un impulso di qualche tipo, questo viene riflesso da qualcosa, si calcola il tempo che impiega l'impulso ad andare e tornare e sappiamo quanto è distante. Qui invece voi fate una roba diversa. E quello che riflette indietro la luce sono le particelle di polvere, sono le goccioline d'acqua che rimandano indietro pochissima luce, ma noi abbiamo un potente telescopio vicino al laser che capta la luce che torna indietro. Il discorso è che la luce viene anche assorbita, allora noi spariamo due impulsi, uno che è assorbito dall'anidride carbonica e quindi torna indietro molto debole e uno che invece non viene assorbito e quindi torna abbastanza più forte. Allora, dalla differenza del segnale ottenuto dai due impulsi noi possiamo dire con una tecnica che viene chiamata differenziale quanta anidride carbonica c'è all'interno del pennacchio. Oltre a misurare la CO2 sopra i pennacchi vulcanici, che altro si può fare con questa tecnologia? Questa tecnologia è una tecnologia che è nota dagli anni 60, proprio dalla scoperta del laser, e uno dei pionieri è proprio un italiano, il professor Fiocco. Allora, questa tecnica ci permette di vedere tante cose. È stata usata per esempio per misurare il buco dell'ozono, quindi in stratosfera. Si può usare per misurare l'inquinamento, perché invece di misurare un gas che è naturale come l'anidride carbonica, noi possiamo usare la stessa tecnica per misurare l'inquinamento che esce da una ciminiera a distanza. Oppure noi possiamo usare questa tecnica anche, pensi un po', per misurare l'uscita di precursori di esplosivi da una casa dove un terrorista sta facendo magari una bomba improvvisata. Ecco, lei mi spiegava che l'acetone, per esempio, è un tipico reagente o qualcosa che si libera quando si fanno queste preparazioni, e se uno intercetta una nuvoletta di acetone, diciamo così, un po' sospetta. Esatto, è proprio così, perché nelle bombe che sono state fatte a Londra, per esempio, è stata usata hydrogen peroxide, l'acqua l'acqua ossigenata, sì, e l'acetone. Tant'è vero che adesso l'acqua ossigenata verrà venduta con norme più restrittive da settembre, perché appunto se uno usa l'acqua ossigenata e l'acetone con particolari concentrazioni può produrre un esplosivo che può essere usato per fare quelle bombe improvvisate che hanno usato, per esempio, come dicevo prima, anche negli attentati di Londra. Grazie Luca Fiorani. Grazie a lei, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.